Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Martina. La Divina Commedia di Dante, di Dante Alighieri. Libro terzo, capitolo quindicesimo, canti, sesto, undicesimo. Canto sesto. Poscia che Costantin l'aquila volse contro al corso del ciel, che ella seguì dietro all'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino a monti dei quai prima uscio, e sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo, lì di mano in mano, e sì cangiando in su la mia pervenne. Cesare fui, e son Giustiniano, che per voler del primo amor ch'io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E prima che io all'ovra fossi attento, una natura in Cristo esser non più è credea e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agapito, che fu sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue. Io li credetti, e ciò che in sua fede era, veggi or chiaro sì, come tu vedi ogni contraddizione è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro e tutto in lui mi diedi. E al mio Belisar comandai l'armi, cui la destra del ciel fu si congiunta, che segno fu che io dovessi posarmi. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno e chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza e cominciò da l'ora che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il fece in alba sua dimora, per 300 anni e oltre, infino al fine che i tre a tre prugnar per lui ancora. E sai che il fedel mal delle Sabine, al dolor di Lucrezia, in 7 regi, vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che il fe, portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi e colleghi, onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, i Deci e Fabi ebber la fama che volontier Mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arbi, che di retro ad Annibale passaro la pestre rocce, po' di che tu l'abbi. Sottesso giovanetti triunfaro Scipione Pompeo, e a quel colle sotto il qual tu nascesti parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle, redur lo mondo a suo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. E quel che fe, da Varo infino a Reno, Isara vide ed era, e vide Senna, e ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe poi, che gli uscì di Ravenna, e saltò Rubicon, fu di tal volo, che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo e Farsalia percosse, sì che al Nil caldo si sentì del duolo. Antadro e Simeonta onde si mosse, rivide a là dove Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da Indi scese folgorando a Iuba, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeana tuba. Di quel che fe col baiuolo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modena e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, che fuggendo l'inanzi dal colubro la morte prese subitana e atra. Con costui corse infino al lito rubro, con costui puose il mondo in tanta pace, che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face, fatto avea prima, e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace, diventa in apparenza poco e scuro, se in mano al terzo Cesare si mira, con occhio chiaro e con affetto puro. Che la viva giustizia che mi ispira, gli concedette in mano a quel ch'io dico, gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammira in ciò che io ti replico, poscia con Tito a far vendetta, corse della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse la santa chiesa, sotto le sue ali Carlo Magno, vincendola, soccorse. Omai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sicché è forte a veder chi più si falli. Faccian li ghibellin, faccian lor arte, sott'altro segno, che mal segue quello sempre chi la giustizia a lui diparte. E non l'abbatta esto Carlo Novello, coi guelfi suoi, ma tema degli artigli, ca più alto Leon trasser l'ovello. Molte fiate già pianser li figli per la colpa del padre, non si creda che Dio trasmuti l'arme per i suoi gigli. Questa picciola stella si correda di buoni spirti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda, e quando li disiri poggian quivi, si disviando pur convien che i raggi del vero amor in su poggin men vivi. Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto e parte di nostra letizia, perché non li vedem minor ne maggi? Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì, che non si puote torcer già mai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. E dentro la presente Margherita, luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella malgradita. Ma i provenzai che fecer contra lui non han riso, e però mal cammina qual si fa danno quel ben fare altrui. Quattro figlie ebbe, ciascuna reina, Raimondo, Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole biece, a dimandar ragione a questo giusto, che li assegnò 7 e 5 per 10. Indi partissi povero vetusto, e se il mondo sapesse il cor che li ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Fine canto sesto. Canto settimo. Osanna sanctus Deus, Sabaoth, super illustrans claritate tua, felices ignes orum malacot. Così, volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sostanza sopra la quale il doppio lume s'addua. Ed essa e l'altre mossero a sua danza, e quasi velocissime faville mi si velar di subita distanza. Io dubitava, e dicea, dille, dille, fra me, dille, dicea, alla mia donna che mi diseta con le dolci stille. Ma quella reverenza che s'indonna di tutto me, pur per be e perice, mi richinava come l'uom ch'assonna. Poco sofferse me cotal Beatrice, cominciò raggiandomi d'un riso tal che nel foco faria l'uom felice. Secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta giustamente punita fosse, t'ha in pensier miso, ma io ti solverò tosto la mente, e tu ascolta che le mie parole di gran sentenza ti faran presente. Per non soffrire alla virtù che vuole freno a sua prode, quell'uom che non nacque dannando sé, dannò tutta sua prole, onde l'umana specie, inferma giacque, giù per secoli molti, in grande errore, finché al verbo al di Dio discender piacque. Una natura che dal suo fattore s'era allungata, unì a sé in persona con l'atto sol del suo eterno amore. Or drizza il viso, a quel cor si ragiona, questa natura al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e buona, ma per se stessa pur fu ella sbandita di paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, sana natura assunta si misura, nulla giamai si giustamente morse, e così nulla fu di tanta ingiuria, guardando la persona che sofferse, in che era contratta tal natura. Però d'un atto uscir cose diverse, ch'a Dio e a Giudei piacque, una morte per lei tremò, la terra e il ciel s'aperse. Non ti dee ormai parer più forte, quando si dice che giusta vendetta, poscia vengiata, fu da giusta corte. Ma io veggio or la tua mente ristretta, di pensier in pensier dentro ad un nodo, del qual con gran disio solver s'aspetta. Tu dici, ben discerno ciò che io odo, ma perché Dio volesse me occulto a nostra redenzion pur questo modo? Questo decreto, frate, sta sepulto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto. Veramente però che a questo segno molto si mira e poco si discerne, dirò perché tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla, sì che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si muove la sua imprenta quand'ella sigilla. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nuove. Più le conforme, però più le piace, che l'ardor santo ch'ogni cosa raggia nella più somigliante e più vivace. Di tutte queste dote s'avvantaggia l'umana creatura, e su una manca di sua nobiltà convien che caggia. Solo il peccato è quel che la disfranca, e falla dissimile al sommo bene, perché del lume suo poco si imbianca. E in sua dignità mai non rivene, se non riempie dove colpa vota, contra mal dilettar con giuste pene. Vostra natura, quando peccò tota nel seme suo, da queste dignità di, come di paradiso fu remota. Ne ricrovar potiensi, se tu badi, ben sottilmente, per alcuna via, senza passar per un di questi guadi. O che Dio solo per sua cortesia dimesso avesse, o che l'uom per sé isso avesse soddisfatto sua follia. Ficcamo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio quando puoi al mio parlar distrettamente fisso. Non potea l'uomo nei termini suoi mai soddisfar per non potere ir giuso con umiltate obbediendo poi, quando disobbediendo intese ir suso. E questa è la cagion perché l'uomo fu e de poter soddisfar per sé dischiuso. Dunque a Dio convenia con le vie sue riparar l'uomo a sua intera vita, dico con l'una over con ammedue. Ma perché l'ovra tanto è più gradita dall'operante quanto più appresenta della bontà del core ond'ella è uscita, la divina bontà che il mondo imprenta di proceder per tutte le sue vie a rilevarsi suso fu contenta. Né tra l'ultima notte e il primo die sì alto e sì magnifico processo o per l'una o per l'altra fu fie che più largo fu Dio a dar se stesso per far l'uomo sufficiente a rilevarsi che se egli avesse sol da sé dimesso e tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia se il figliuol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. Or per empirti bene ogni disio ritorna a dichiararti in alcun loco perché tu veggi li cosi com'io. Tu dici, io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere e la terra e tutte lor misture venire a corruzione e durar poco. E queste cose pur furon creature, perché se ciò che ha detto è stato vero, esser dovrien da corruzione sicure. Gli angeli, frate, il paese sincero nel qual tu sei, dirsi posson creati, sì come sono in loro essere intero. Ma gli elementi che tu hai nomati e quelle cose che di lor si fanno da creata virtù, sono informati. Creata fu la materia che le hanno, creata fu la virtù informante, in quelle stelle che intorno a lor vanno. L'anima d'ogni bruta delle piante di complession potenziata tira lo raggio e il moto delle luci sante. Ma vostra vita senza mezzo spira la somma beninanza e la innamora di sé sì, che poi sempre la disira. E quinci puoi argomentare ancora vostra resurrezione, se tu ripensi come l'umana carne fessi allora, che li primi parenti intrambo fensi. Fine canto settimo. Canto ottavo. Solea creder lo mondo in suo pericolo, che la berra ciprigna al folle amore raggiasse, volta nel terzo epliciclo, perché non pura lei faceano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore. Ma Dione onoravano e Cupido, quella per madre sua, questo per figlio, e dicevan che il sedette in grembo a Dido. Ed a costei ond'io principio piglio, pigliavano il vocabol della stella, che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Io non m'accorsi del salire in ella, ma d'esservi dentro mi fe assai fede, la donna mia ch'io vedi far più bella. E come in fiamma favilla si vede, e come in voce voce si discerne, quando una è ferma e altra va e riede, vid'io in essa luce altre lucerne, muoversi in giro più e men correnti, al modo, credo, di lor viste interne. Di fredda nube non discese venti, o visibili o no, tanto festini, che non paressero impediti e lenti. A chi non avesse quei lumi divini veduti, a noi venir lasciando il giro, pria cominciato in li alti serafini. E dentro a quei che più innanzi appariero sonava Osanna, sì che unque poi di riudir non fui senza disiro. Indi si fece l'un più presso a noi, e solo incominciò. Tutti sempresti al tuo piacer, perché di noi ti gioi. Noi ci volgiam coi principi celesti, d'un giro e d'un girare, d'un sansete, ai quali tu nel mondo già dicesti, voi che intendo il terzo ciel muovete, e sem si pien d'amor, che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti ed essa fatti li avea di sé contenti e certi, rivolseri alla luce che promessa tanto s'avea, e, de chi siete, fu la voce mia di grande affetto impressa. E quanta quale vid'io lei far più e per l'allegrezza nova che s'accrebbe quando parlai all'allegrezze sue, così fatta mi disse. Il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe. La mia letizia mi tien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amassi, e avesti ben onde, che s'io fossi giustato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava di Rodano, poi che misto con sorga, per suo signore a tempo m'aspettava, e quel corno d'Ausonia che si imborga di Bari, di Gaeta e di Catona, da ove tronto e verde in mare sgorga. Fulgeami già in fronte la corona di quella terra che il Danubio riga, e poi che le ripe tedesca abbandona. E la bella Trinarchia, che Caliga e Trapachino e Peloro sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga. Non per Tifeo, ma per nascente Solfo, attesi avrebbe lì i suoi regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo, se ma la signoria, che sempre accora li popoli soggetti, non avesse mosso Palermo a gridar Mora, Mora. e se mio frate questo antividesse, la vara povertà di Catalogna già fuggeria, perché non li offendesse, che veramente provveder bisogna per lui o per altrui, sì che a sua barca, carcata più d'incarco, non si pogna. La sua natura, che di larga parca discese, avria mestier di tal milizia, che non curasse di mettere in arca. Però ch'io credo che l'alta letizia che il tuo parlar mi infonde, signor mio, l'ave ogni ben si termina e si inizia, per te si veggia come la veggio, grata me più, e anco questo, caro, perché il discerni rimirando in Dio. Fatto m'è lieto, e così mi fa chiaro, poiché parlando a dubitar m'è mosso, come esser può di dolce seme amaro. Questo io a lui ed egli a me. S'io posso mostrarti un vero, a quel che tu dimandi, terrai lo viso come tien lo dosso. Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge e contenta, fa esser virtute sua provvedenza, in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono in la mente che è da sé perfetta, ma esse insieme con la lor salute. Perché quantunque quest'arco saetta disposto cade a provveduto fine, sì come cosa in suo segno diretta. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine producerebbe sì li suoi effetti, che non sarebbero arti ma ruine. E ciò esser non può, se li intelletti che muovon queste stelle non son manchi, e manco il primo che non li ha perfetti. Vuo tu che questo ver più ti s'imbianchi? E io, non già che impossibil veggio, che la natura in quel che è uopo stanchi. Ond'egli ancora, ordi sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Sì, risposi io, e qui ragion non cheggio. E può egli esser se giù non si vive diversamente per diversi uffici? Non se il maestro vostro ben vi scrive. Sì, venne deducendo infino a quici, poscia conchiuse. Dunque, esser diverse convien di vostri effetti le radici. Per cun nasce Solone e l'altro Serse, altro Melchisedec e altro quello che, volando per l'aere, il figlio perse. La circular natura, che è suggello alla cera mortal, fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro stello. Quinci addivien che Esaù si diparte per seme da Jacob, e vien Quirino, da sì vil padre che si renda Marte. Natura generata al suo cammino, simil farebbe sempre a generanti se non vincesse il provveder divino. Or quel che t'era dietro t'è davanti, ma perché sappi che di te mi giova, un corollario voglio che t'ammanti. Sempre natura, se fortuna trova, discorde a sé, come ogni altra semente, fuor di sua region fa mala prova. E se il mondo laggiù pone semente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Ma voi torcete la religione, tal che fia nato a cignersi la spada, e fate re di tal che è da sermone, onde la traccia vostra è fuor di strada. Fine, canto ottavo. Canto nono. Da poi che Carlo tuo, bella clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò l'inganni che ricever dovea la sua semenza. Ma disse, taci e lascia muovere gli anni, sì ch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo rivolta sera al sol, che la riempie, come quel ben che a ogni cosa è tanto. Ai, anime ingannate, fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Ed ecco un altro di quelli splendori, ver me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fori. Gli occhi di Beatrice, che eran fermi sovra me come pria, di caro assenso al mio disio certificato fermi. Deh, detti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce, che m'era ancora nova del suo profondo, onde ella pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non surge molto alto. La onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. D'una radice nacqui, e io ad ella, Cunizza, fui chiamata, e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, e non mi noia che perria forse forte al vostro vulgo. Di questa loculente cara gioia del nostro ciel che piume propinqua, grande fama rimase, e pria che moia, questo centesimo anno ancor s'incinqua. Vedi se far sì de l'uomo eccellente, sì che altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice richiude, né per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna, per essere al dover le genti crude. E dove sì le Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpirsi fa la ragna. Piangerà feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, stanco chi il pesasse a oncia a oncia, che donerà questo prete cortese, per mostrarsi di parte e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde refulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlarne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la rota in che si mise com'era davante. L'altra Letizia, che m'era già nota, per cara cosa mi si fece in vista, qual fin balasso, in che lo sol percuota. Per Letizia la su fulgor s'acquista, sì come riso, qui ma giù s'abbuia, l'ombra di fuor come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo vedersi in luia, diss'io, beato spirito, sì che nulla voglia di sé a te puote esser fuia. Dunque la voce tua che il ciel trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii, che di sei ali face in la cuculla, perché non satisface ai miei disii? Già non s'attendere io la tua dimanda, s'io m'intuassi come tu timmii. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciaro allor le sue parole. Fuor di quel mar che la terra è in inghirlanda, tra discordanti liti contro il sol, tanto sen va che fa meridiano, là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fui io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal toscano. Ad un occaso quasi ad un orto buggea siede la terra ond'io fui, che fede il sangue suo già caldo il porto. Folco mi disse quella gente, a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me si imprenta, come io fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando, e a Sicheo e a Creusa di me, infin che si convenne al pelo. Né quella rodopea che delusa fu da Damofonte, né Alcide, quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provide. Qui si rimira nell'arte che addorna, co tanto effetto, e discernesi il bene, perché il mondo di su quel di giù torna. Ma perché tutte le voglie piene, temporti che son nati in questa spera, procedere ancora oltre mi convene. Tu vuoi saper chi è in questa lumera, che qui appresso me così scintilla, come raggio di sole in acqua mera. Or sappi che là entro si tranquilla Rahab, e a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma del triunfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria, che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché la favorò la prima gloria di Josué in sulla terra santa, che poco toccala al Papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore, e di cui è la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore. Già disviate le pecore e gli agni, però, che ha fatto lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e il dottor Magni son derelitti, e solo ai decretali si studia, sì che pare a loro vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali, non vanno i loro pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse l'ali, ma Vaticano e le altre parti elette di Roma che sono state cimitero, alla milizia che Pietro seguette, tosto libere, fian della Voltero. Fine, canto nono. Canto decimo. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternalmente spira, lo primo e l'ineffabile valore, quanto per mente e per loco si gira, con tant'ordine fe, ch'esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. Leva dunque, lettore, all'alte rote, meco la vista, dritto a quella parte dove l'un moto e l'altro si percuote, e lì comincia a vagheggiar nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama, tanto che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indici di rama l'obliquo cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. Che se la strada lor non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe in vano e quasi ogni potenza quaggiù morta. E se dal diritto più o meno lontano fosse il partire, assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, se esser vuoi lieto, assai prima che stanco. Messo t'ho innanzi, omai per te ti ciba, che a sé torce tutta la mia cura, quella materia ond'io son fatto scriba. Lo ministro maggior della natura che del valor del cielo lo mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura. Con quella parte che su si rammenta, congiunto si girava per le spire, in che piuttosto ognora s'appresenta. E io era con lui, Ma del salire non m'accorsi io, se non com'uom s'accorge, anzi il primo pensier del suo venire. E Beatrice, quella sì che si scorge di bene in meglio, sì subitamente che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sì lucente, quel che era dentro al sol dov'io entrami non per color, ma per lume pervente. Perch'io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami, sì nol direi che mai s'immaginasse, ma creder puossi e di vedersi brami. E se le fantasie nostre son basse, a tanta altezza non è maraviglia, che sopra il sol non fu occhio c'andasse. Tale era quivi la quarta famiglia dell'alto padre, che sempre la sazia, mostrando come spira e come figlia. E Beatrice cominciò. Ringrazia, ringrazia al sol degli angeli, che a questo sensibil t'ha levato per sua grazia. Cor di mortal non fu mai sì di gesto a divozione a rendersi a Dio con tutto il suo gradirco tanto presto. Come a quelle parole mi feci io, e sì tutto il mio amore in lui si mise, che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque, ma sì, se ne rise, che lo splendor degli suoi occhi ridenti mia mente unita in più cose divise. Io vidi più folgor vivi e vincenti far di noi centro, e di sé far corona, più dolci in voce che in vista lucenti. Così cinger la figlia di Latona, vedendo talvolta quando l'aere è pregno, sì che ritegna il fil che fa la zona. Nella corte del cielo, ond'io rivegno, si trovan molte gioie, care e belle, tanto che non si possono trar del regno. E il canto di quei lumi era di quelle, chi non si impenna sì che lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Poi sì cantando quegli ardenti soli, si fuor girati intorno a noi tre volte come stelle vicine a fermi poli. Donne mi parver, non da ballo sciolte, ma che s'arresti in tacite, ascoltando finché le nove note hanno ricolte. E dentro l'un sentì cominciar, quando lo raggio della grazia onde s'accende, verace amor, e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto resplende, che ti conduce su per quella scala, usanza risalir nessuno discente. Qual ti negasse il vin della sua fiala, per la tua sete in libertà non fora, se non com'acqua calmar non si cala. Tu vuo saper di quai piante si infiora questa ghirlanda, che intorno vagheggia la bella donna che al ciel t'avvalora. Io fui degli agni della santa greggia che Domenico mena per cammino, u ben si impingua che non si vaneggia. Questi che m'è destra più vicino, frate maestro fummi, ed esso Alberto è di Cologna, e io Tomas d'Aquino. Se sì di tutti gli altri esser vuo certo, di retro al mio parlar ten vien col viso, girando su per lo beato serto. Quell'altro fa immeggiare esce dal riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiuto sì che piace in paradiso. L'altro che appresso adorna il nostro coro, quel Pietro che fu con la polverella offerse a Santa Chiesa il suo tesoro. La quinta luce, che è tra noi più bella, spira di tal amor che tutto il mondo laggiù nella gola di saper novella. Entro vela altamente, usi profondo, saver fu messo, che se il vero è vero, a veder tanto non surse il secondo. Appresso vedi il lume di quel cero, che giù in carne più adentro vide l'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride quello avvocato dei tempi cristiani, del cui latino Augustin si provide. Or se tu l'occhio della mente trani di luce in luce dietro alle mie lode, già dell'ottava con sete rimani. Per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da vessilio venne a questa pace. Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro di Isidoro, di Beda e di Riccardo, che a considerar fu più che viro. Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, e il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che, leggendo nel vico degli strami, silogizzò invidiosi veri. Indi, come orologio che ne chiami, nell'ora che la sposa di Dio surge, a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte l'altra tira e urge, tintin sonando, con sì dolce nota, che il ben disposto spirito d'amor turge. Così vid'io la gloriosa rota, muoversi e render voce a voce in tempra, in dolcezza che esser non può nota, se non colà dove gioirsi in sempre. Fine, canto decimo. Canto undicesimo. O insensata cura dei mortali, quanto son difettivi silogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali, chi dietro a Iura e chi ad anforismi s'engiva, e chi seguendo sacerdozio e chi regnar per forza per sofismi, e chi rubare e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava e chi si dava l'ozio. quando da tutte queste cose sciolto con Beatrice m'era suso in cielo, cotanto gloriosamente accolto. Poi che ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi, come a candelier candelo, e io sentì dentro a quella lumera che prima m'avea parlato sorridendo incominciar facendosi piumera. Così com'io nel suo raggio resplendo, sì, riguardandoti nella luce eterna, li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. Tu dubbi, hai voler che si ricerna in sì aperta e in sì distesa lingua, lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna. Ovinanzi, dissi u, ben si impingua, e la u, dissi, non nacque il secondo, e qui è uopo che ben si distingua. La provvedenza che governa al mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, però c'andasse ver lo suo diletto. La sposa di colui, che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto. In sé sicura, e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fu di cherubica luce uno splendore. Dell'un dirò, però, che a me due si dice l'un pregiando qual comprende perché ad un fine fur l'opere sue. Intra Tupino e l'acqua che discende dal colle eletto dal beato Ubaldo fertile costa d'alto monte pende. Onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole e di rientro la piange per grave gioco no c'era con Gualdo. Di questa costa la dovella frange più sua rattezza nacque al mondo un sole come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontano dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui come alla morte la porta del piacer nessun disserra. E dinanzi alla sua spirital corte, et coram patre, le si fece unito, poscia di in di l'amò più forte. Questa privata del primo marito, 1100 anni e più, dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. Ne valse udir che la trovò sicura con Amiclate al suon della sua voce, colui che a tutto il mondo il fe paura. Ne valse esser costante né feroce, sicché, dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà, per questi amanti, prendi oramai del mio parlar diffuso. La lor concordia e lor lieti sembianti, amore maraviglia e dolce sguardo, facciano esser cagioni di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace, corse, e correndo gli parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo si la sposa piace. Indi sen va quel padre, quel maestro, con la sua donna e con quella famiglia, che già legava l'umil capestro. Né li gravò viltà di cuor le ciglia per esser fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia. Ma regalmente sua dura intenzione ad innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poiché la gente poverella crebbe, dietro a costui le cui mirabili vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per l'onorio dall'eterno spiro, la santa voglia d'esto archimandrita. E poiché per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba, predicò Cristo e gli altri che il seguiro, e per troppo trovare a conversione acerba, troppo la gente, per non stare in darno, redisse al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso, intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo, che le sue membra 2 anni portarno. Quando colui che tanto ben sortillo piacque di trarlo suso, alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi, sì come giusta erede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara, muoversi volle, tornando al suo regno e al suo corpo non volle altra bara. Pensa ormai qual fu colui che degno collega fu mantenere la barca di Pietro in altro mar per dritto segno. E questo fu il nostro patriarca, per quel che segue lui come il comanda, discerner puoi che buon merce carca. Ma il suo peguglio di nova vivanda è fatto ghiotto, sì che esser non puote che per diversi salti non si spanda. E quanto le sue pecore remote e vagabunde più da esso vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Or se le mie parole non son fioche, se la tua udienza è stata attenta, se ciò che è detto alla mente revoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia, e vedrai il correggere che argomenta, Uben si impingua se non si vaneggia. Fine del canto undicesimo. Fine del capitolo quindicesimo.